Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Gufi o allodole? Vi dicono qualcosa questi due animali o nulla in particolare? Buongiorno da Nicoletta Carbone, se volete saperne di più seguitemi. Restate pure dove siete, facciamo tutto noi. Sei gufo se ti senti in piena forma di sera e poi di fila anche di notte. E gli amici ti crollano addormentati intorno e tu resisti, anzi, sei pimpantissimo. Ma quanti caffè ci vogliono al mattino per cominciare a carburare? E basta una tazzina o ci vuole una flebo? Sei allodola se già nel buio dell'alba sei scatenato a pensare a cosa devi fare quel giorno e parti con le tue attività prima ancora che sorga il sole. Ma alla sera, già a cena, ti senti stremato e ti cala la palpebra sì e no alla fine del TG. E pensare di andare al cinema al secondo spettacolo è una missione impossibile. Quanti gufi e quante allodole sono in questo momento all'ascolto? Voi scriveteci al 349-238-6666 e alla fine della puntata tireremo le somme. Intanto io mi schiero dalla parte delle allodole, per me il mattino ha l'oro in bocca, la sera invece crollo. Sentiamo il nostro ospite, il professor Roberto Manfredini, direttore della clinica medica all'azienda ospedaliera Università di Ferrara. Buongiorno professore. Intanto buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti voi gli ascoltatori. Beh, credo di solidarizzare anch'io con le allodole, dico la verità. Alle 6 del mattino sono già in piena attività. E alla sera che ora crolla? Alla sera crollo, è fatica vedere il film di prima serata. Poi al limite, se resisto, dopo posso anche andare oltre. Le leggo subito un SMS di Lisa che ci scrive: io non mi alzerei mai al mattino, alla sera alle 23 sono già lessa, che bestia sono. Un altro ascoltatore ci scrive: gufissimo da giovane, ora ahimè sono un gufo che vuole essere un'allodola, mi sveglio presto a fatica e non riesco ad andare a letto presto, ci scrive Luca. E Federico da Torino ci scrive: e io cosa sono? La mattina e la sera sto benissimo, mi sveglio presto e vado a letto tardi, ma vado in crisi dopo pranzo dalle 14 alle 16 circa. Professor Manfredini. Beh, intanto cose simpatiche, perché veramente si sente che dare delle definizioni generali è molto difficile. Per esempio, la persona che ha quella crisi nel primo pomeriggio è codificato, è quello che noi chiamiamo post lunch dip, è quella caduta di attenzione che avviene nelle ore dopo il pranzo. Tra l'altro scientificamente è provato che anche se uno non ha mangiato oppure ha mangiato un pranzo leggero avviene, perché fa parte dell'oscillazione ritmica del nostro organismo, quindi è l'ora peggiore per stare attenti anche se uno ha mangiato un'insalatina, perché cala la palpebra. Poi ci sono persone che hanno questo strano atteggiamento, che non sono né gufi né allodole. Vero gufo, sì, e la vera allodola probabilmente sono il 5, forse il 10%, non di più, che estremizzano. Poi c'è una grande fetta di intermedi e c'è una grande fetta di intermedi che magari volge un pochino verso il gufo, volge un pochino verso la lodola. E poi mescoliamo tutto con quello che le attività ci costringono a fare. Allora, tutti però, professore, gufi, allodoli, intermedi, sappiamo che nel corso della nostra giornata ci sono dei momenti in cui rendiamo di più, altri un po' di meno, momenti in cui ci sembra di essere pieni di energia, forti come un leone, altri invece in cui i nostri acciacchi si fanno sentire di più. Anche l'umore a delle volte va a gonfie vele, altri momenti anche della giornata è un pochino più grigio. Professor Manfredini, però è sempre tutto questione di ritmi, e allora cosa possiamo imparare da questa scienza, la cronobiologia, che i ritmi li studia? È vero, come ha detto giustamente, praticamente da sempre l'uomo si è accorto che c'erano dei momenti sì, dei momenti no, e degli alti e bassi. Il fatto che sia diventato oggetto di uno studio sistematico e con una vera e propria disciplina, appunto la cronobiologia, è recente tutto sommato, anzi, visto che ha una cinquantina d'anni, oserei dire, Cicero Prodomo Sua, che è giovanissima, una scienza giovanissima, e così si è capito quanti anni ho. Ma ecco, direi che da quando si è potuto fare le misurazioni accurate, da quando esistono i software per poter riprodurre il fatto che questo andamento è così oggi e così domani, quindi è riproducibile, e di poterlo quindi validare e provare su, non so, prelievi di sangue, sugli ormoni, come diceva lei, sulle caratteristiche del tono dell'umore, su tante cose, per cui si è visto che tutto ha un ritmo, l'abbiamo nel DNA. Per esempio, il fatto di essere gufo allodola, di cui stiamo parlando oggi, è semplicemente, non tanto semplicemente, comunque è scandito nel gene clock, che è un gene particolare che noi abbiamo, che ci scandisce una parte dei nostri ritmi, si chiama orologio, proprio gene clock. Esiste una versione fast e una versione slow, cioè una versione più veloce e una più lenta, con una modificazione anche solo di un'ora del picco della temperatura corporea, che è il nostro marcatore, e si diventa gufo all'odola per questa piccolissima differenza genetica. Quindi basta proprio un pelo. Pochissimo. Vediamo se Andrea Vitali, medico e scrittore, ha trovato il suo. Dal successo dei suoi libri sembrerebbe proprio di sì, ma sentiamo che cosa ha raccontato a noi. Io sono trasversale in quel senso lì, nel senso che sono a volte gufo e a volte all'odola, e questo dipende molto anche dalla stagione, che sicuramente influenza un po' il mio umore, i miei tempi di scrittura, ecco, direi così. Guarda, l'ispirazione è una cosa abbastanza strana. Io devo dire questo, che riesco a scrivere molto bene al mattino se la sera prima vado a dormire con una mezza idea su quello che è il lavoro che mi aspetta il giorno dopo. Anche la sera offre delle buone parentesi. Se però posso dirlo, c'è una cosa che io odio profondamente, sono le prime ore del pomeriggio, che sono quelle in cui veramente mi sento come un limone già usato e nemmeno struccarmi le meningi viene fuori una parola che è una. Professor Manfredini, Andrea Vitali dice un limone, no? E non riesco neanche a struccarmi le meningi. Ha perfettamente ragione il collega, che tra l'altro stimo moltissimo per quanto è bravo, è perché, come abbiamo detto prima, i momenti critici sono prevalentemente due. Il momento critico, abbiamo detto, delle primissime ore del primissimo pomeriggio, sì, e poi l'equivalente portato nella notte, cioè dalle 2 alle 3 alle 4 di notte, è il momento in cui l'organismo è al massimo del down dei ritmi per quello che riguarda le performance. Sì. Quindi, per esempio, non so, chi fa la grande studiata notturna fa una grande fatica e acquisisce pochissimo. Guidare la macchina di notte, i riflessi sono rallentati di oltre la metà. In una persona che non abbia che non sia né in debito di sonno né abbia preso alcol, niente, proprio fa parte del nostro patrimonio ritmico. L'errore umano è prevalentemente in queste ore, 2, 3, 4 di notte. Invece la mattina si presta molto bene per la memoria a breve termine, per la performance complessa, e così anche la sera. Quindi giustamente, sia per scrivere che per studiare, ci sono queste fasce e altre che sono completamente negative. Allora, dalla scrittura di Andrea Vitali passiamo all'attività fisica con Orlando Pizzolato. L'ha raggiunto Laura Vanossi, sentiamo. Da sempre sono una lodola, perché mia mamma mi ha abituato a andare a essere il chierichetto alla messa prima, quindi alle 6, ma ancora quando ero un ragazzino. Poi andavo ad aiutare mio zio in panetteria e il panettiere fa il pane presto, per cui da sempre ho assecondato questa mia esigenza. E come sportivo, poi dovendo anche allenarmi due volte al giorno, il mattino era il momento in cui esprimevo meglio le mie prestazioni. Senza sveglia, normalmente prima delle 5:15, però è necessario che io metta giù la testa alle 9:30, per cui alla fine, quando si fanno i conti delle ore di sonno, sono quasi quelle di una persona normale. Mi sentivo favorito quando, per esempio, andavo a gareggiare negli Stati Uniti, perché avevo un fuso orario favorevole in quel caso lì, e mi sono sempre espresso bene a quel livello, anche se quando si va a preparare una gara si cerca già settimane prima di abituarsi a sostenere lo sforzo nell'orario della gara, proprio perché l'organismo può essere indotto a degli adattamenti. Col tempo ho regolato veramente il mio orologio e mi alzo e sono pronto dopo pochi minuti a esprimere il massimo sforzo cardiocircolatorio, cosa che invece altri atleti, i gufi, hanno difficoltà, per cui diciamo che se io dovessi competere la sera tardi avrei difficoltà, ho difficoltà di concentrazione, mentre per me la mattina farei tutte le cose impegnative di questo mondo. Professor Manfredini, che dice? Sicuramente Orlando Pizzolato ha colto, da grande esperto, ha toccato una serie di punti, tra l'altro molto modestamente, ha detto che si trova bene negli Stati Uniti, ecco, forse è meglio che tutti ricordino quante volte ha vinto la maratona di New York. Comunque direi che molto dipende anche dalla sua disciplina, cioè Orlando Pizzolato fa atletica leggera, come tutti sanno, ma in particolare fa il fondo, fa la maratona, che è profondamente diverso dal fare, per esempio, dal correre i 100 metri. Se fosse un 100 metrista, sì, avrebbe il massimo della sua attività invece nelle ore del pomeriggio-sera, quando la macchina neuromuscolare è preparata per essere esplosiva. Quindi la forza esplosiva, il tempo di reazione allo stimolo. Perché? Perché la temperatura corporea, tutti sanno che è un pochino più alta al pomeriggio, la febbre viene sì, al pomeriggio. Infatti si dice l'ora della febbre alle 5, esatto, almeno questo così. È un indice che la macchina sta producendo più energia, più calore. La febbre non è altro che il calore che producono le nostre reazioni chimiche. E ogni volta che si alza di un grado la temperatura, pensate per esempio che la velocità di conduzione dello stimolo nei nervi aumenta di 2 metri e mezzo al secondo. Quindi, siccome al pomeriggio rispetto alla mattina abbiamo almeno mezzo grado di più, anche un pochino di più, pensate il vantaggio che c'è per esempio a rispondere allo sparo dello starter, per esempio sì, nel nuoto, per esempio, o nei 100 metri. Discorso diverso per la maratona, perché mentre l'atleta che fa sport di scatto, sport di potenza, si trova quindi bene al pomeriggio, alla sera, la maratona, già il maratoneta viaggia con una temperatura corporea molto elevata, cioè i maratoneti corrono, e se mettessimo il termometro, alcuni hanno 39 e anche di più, quindi è giusto che gareggino al mattino, perché a farli gareggiare nel momento in cui la temperatura è più alta, sia quella dell'organismo, sia magari quella logistica, se non corressero di mattina con un po' più fresco, avrebbero dei seri problemi. Tutti ricordiamo alcune gare alle Olimpiadi dove alcuni maratoneta svenivano per il caldo, oppure perché loro sono già attivatissimi. Quindi è giusto, è giusto farli correre al mattino. Sì. Andiamo da Fabiola, che ci chiama da Modena. Buffo Allodola, buongiorno a lei. Buongiorno, io ho telefonato perché la trasmissione mi incuriosisce e mi interessa parecchio, perché mi sono sempre ritenuta un gufo. Io per molti anni ho tirato veramente molto tardi la sera, tra l'altro ho un lavoro molto performante, due bimbi piccoli, e studiando notte e tempo, quindi la sera fino a tardi, sono riuscita a laurearmi anche con ottimi risultati. Brava. E non ho mai accusato stanchezza né deficit a livello di performance durante il giorno. Domanda è, visto che da quando mi sono laureata crollo inesorabilmente alle 9 di sera, se è possibile in qualche modo combattere questa mancanza di performance, che forse, non lo so, forse è dettata anche da una mancanza di tensione, no, per raggiungere qualche risultato particolare. Professor Manfredini, un gufo che si sta diventando allodola, di solito è il contrario, almeno leggendo i messaggi dei nostri ascoltatori, ma quale indicazione? È vero, di solito invecchiando si tende semmai a diventare allodole, questo si dorme sempre di meno, ci si sveglia prima. Bisogna vedere per la nostra ascoltatrice se era un gufo naturale o era un gufo indotto, perché come ci ha raccontato, il lavoro, la necessità di studiare, i bambini, eccetera, quindi erano dei motivatori particolarmente importanti. Giustamente dice, forse adesso ho meno, tra virgolette, motivazioni, nel senso non sono obbligata a fare quelle cose e crollo prima, magari il DNA forse non era francamente un gufo vero. E poi c'è da dire che comunque ricordiamo sempre che noi abbiamo nel DNA quelle lichine che ci dicono cosa siamo, ma per i ritmi possiamo essere sincronizzati, possiamo essere modulati, cioè una persona può soffrire di più o di meno, ma a seconda di quanto si prolunga lo stimolo che fa cambiare il ritmo, l'organismo si adatta un po'. Quindi se uno facesse sempre, per fortuna no, il lavoro notturno sempre, i suoi ritmi si modificano e quindi si trasforma rispetto all'animale diurno. Andiamo a Perugia, ci aspetta Fausto. Buongiorno Fausto. Buongiorno. Mi sente? Io la sento benissimo, Fausto. Sono un infermiere e alterno turni di lavoro abbastanza pesanti, perché lavoro in un reparto di rianimazione, e quindi di mattina e poi giorno dopo di pomeriggio, giorno dopo di notte, poi riposo e ricomincio di mattina e pomeriggio. Vorrei sapere se c'è un modo per... Io non so se sono un gufo o una allodola, assolutamente non ho idea, però vorrei sapere se c'è un modo per ottimizzare i riposi e se le ore di sonno fatte, tra virgolette, di giorno equivalgono a quelle fatte di notte. Di notte, grazie Fausto. Professor Manfredini, il problema dei turnisti ha interessato a lungo la cronobiologia. Esatto, Fausto ha toccato un tasto molto importante. Non so quanti anni abbia, ma pressappoco credo che ricordi, se è particolarmente giovane, che quando ero giovane io, gli infermieri del mio reparto avevano tutto un altro sistema di turni. Un sistema di turni che è stato proprio smantellato dalla cronobiologia, dalla medicina del lavoro, perché faceva soffrire particolarmente le persone. Ovvero sia, una ventina di anni fa si faceva una turnazione infermieristica che prevedeva una settimana di turno di mattina, poi una settimana di turno di pomeriggio, poi una settimana di turno di notte, e poi c'era una settimana, tra virgolette, di riposo. Sì. Questo è quanto di peggio può essere per l'organismo, perché in una settimana l'organismo si ancora, come diciamo noi, cioè si adatta a un certo ritmo, si abitua, poi passa una settimana e si vede spostato, e poi ne passa un'altra, se viene spostato ancora. Va in tilt. Quindi, esatto, quindi si desincronizza, in parola difficile, aumentavano i disturbi, che sono i disturbi che conosciamo, che sono gli stessi per esempio del jet lag, cioè a fare fatica a dormire, avere sonnolenza diurna e sveglio di notte, digerire male, tono dell'umore che va un po' così, essere nervosi, effettivamente era così. Da qualche anno, grazie agli studi della cronobiologia applicati alle medicine del lavoro, si fa un turno veloce, esattamente quello che ha detto Fausto, cioè si fa mattina, pomeriggio, notte, riposo. Mattina, pomeriggio, notte, riposo. Questo è una turnazione così rapida che non dà tempo all'organismo di ancorare il ritmo e quindi non fa in tempo ad abituarsi ad avere disturbi. Quindi effettivamente è il meglio che si possa dare. Il meglio sarebbero dei turni ancora più brevi, ma sì, non si possono fare per vari motivi. Il meglio è considerato il turno del guardiamarina, si dice, quello che ogni 4 ore fa il turno di guardia di 4 ore. È impossibile per l'attività lavorativa. Certo. Questo è il turno che dà meno disturbi dal punto di vista del sincronizzante. Altro problema è quello del se il dormire di giorno è facile o difficile rispetto al dormire di notte. Questo è un altro problema. Sì. Sì. E poi se ristora, se vale, se le ore del mattino valgono come quelle della notte per il se riposo. Se uno riesce a fare un sonno compiendo i cicli giusti del sonno, quindi perché ricordiamo che dormire 8 ore o dormirne 4, dormire 8 ore di pisolini di un'ora e dormirne 4 bene sono meglio le 4 bene, come abbiamo visto prima. Sì. Quindi se riesci a fare, a trovare un suo equilibrio, stanza buia, silenzioso, eccetera, riesci a dormire alcune ore bene, sono ristorative come quelle della notte. Io vorrei leggerle un messaggio di un ascoltatore che ci scrive: devo fare una prova da sforzo, sono un gufo, me l'hanno fissata al mattino alle 8:30, rischio di farla male? Probabilmente sì, sappiamo che per esempio le coronarie, quelle che noi vogliamo andare a vedere con il test da sforzo, sono un pochettino più chiuse al mattino rispetto alla sera, c'è il flusso è lievemente ridotto al mattino rispetto alla sera, quindi questo può spiegare perché alcune malattie cardiovascolari hanno questo picco, però una prova da sforzo, anche se è un gufo, sicuramente la condurrà ce la in maniera ce la potrà appropriata. Fare. Rocco, buongiorno. Buongiorno, dunque io ho 38 anni e sono un commercialista, sì, quindi ho una vita intellettuale abbastanza intensa. Il mio problema è cercare di raggiungere un equilibrio tra la mia capacità intellettuale e l'intera giornata, cioè mi spiego meglio. Io cerco di dormire poco perché vorrei svegliarmi prima per studiare, quello che non riesco a fare ormai in studio. Sì. E vorrei capire se e in che misura il contemperamento con l'attività fisica, che io potrei anche fare una mezz'oretta a casa, insomma svegliandomi anche un po' prima, mi possa aiutare nel corso della giornata. Quindi Rocco, allora 38 anni, lei si sente più gufo o allodola? Io sono sempre stato francamente una persona che ha avuto uno stile di vita molto, molto regolare, cioè io la mattina, anche se tornavo a casa alle 2, alle 3, alle 7:30 mi svegliavo perché alle 8 ero sui libri. Professor Manfredini, che consiglio allora possiamo dare a Rocco? Se posso dargli un consiglio, se può naturalmente, perché dipende come lui organizza la sua giornata, si sente svegliandosi a quell'ora di avere ancora sonno, quindi però la sera finisce tardi, se lui facesse un pochino di attività fisica invece che al mattino, quella mezz'oretta, non so se è o in palestra o con la cicletta o in casa, insomma più portata verso la sera, un'attività sportiva leggera, mi raccomando, fatta alla sera, fa quella giusta stancata per dormire un pochino prima, non deve essere però un'attività fisica importante, altrimenti via l'endorfina e poi si rimane sveglio. Certo. Quindi se uno ha bisogno di dormire una mezz'oretta prima, potrebbe fare un pochino di attività fisica alla sera. Ringrazio il dottor Manfredini che ci ha accompagnato in questa prima parte di trasmissione. Adesso è arrivato il momento di una breve pausa e poi di nuovo insieme. Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Gufi o allodole? Vi dicono qualcosa questi due animali o nulla in particolare? Buongiorno da Nicoletta Carbone, se volete saperne di più seguitemi. Restate pure dove siete, facciamo tutto noi. Sei gufo se ti senti in piena forma di sera e poi di fila anche di notte. E gli amici ti crollano addormentati intorno e tu resisti, anzi sei pimpantissimo. Ma quanti caffè ci vogliono al mattino per cominciare a carburare? E basta una tazzina o ci vuole una flebo?

è poco bello recuperarsi il tanto costosissime le miscelazioni di macedonie o di verdure già fatte, già preparate in monoporzione, però tenersi in casa ad esempio delle mele, delle pere, le tengono in serbatoio per mesi, se noi le teniamo per 15 giorni in frigorifero non succede nulla, dei dubbi, anzi abbiamo delle sostanze che sono ottime, che sono quel crudo vivo e colorato che ormai si sta documentando come uno degli strumenti per stare bene. Una delle cose utili, ad esempio, carote. Le carote si conservano a lungo. La carota va passata sotto l'acqua corrente spazzolata, cioè si toglie effettivamente quello che ci può essere, poi va sgranocchiata, fa bene ai denti, fa bene allo stomaco, fa bene a tutto il resto. È un ammazza fame poi. Ma assolutamente. Imparare a comprare, se uno passa occasionalmente uscendo da una seduta di lavoro, passa davanti a un verduriere, ecco che il grappolo d'uva, piuttosto che la frutta di stagione che può comparire, se ne prende un po' e questa si mangia rapidamente. Ma una base delle verdure e della frutta utilizzabili bene, cioè mele, carote, le segnalo perché sono le più facili da gestire, sì. Un sedano, sono sicuramente gestibili in qualsiasi situazione come intermezzo di pranzo, eccetera. E qui veniamo ad altri due elementi. Trovo che una delle cose deleterie, ma questo lo vedo da medico nei single, è che normalmente c'è l'utilizzo del pane, no? Che sono crackerini, biscottini. Sgranocchiano i single, sì. Sono degli sgranocchiamenti assolutamente deleteri, sono pieni di sale, sono pieni di grassi idrogenati vegetali. Lancio un appello per le nostre single, grassi vegetali idrogenati significa produzione di radicali liberi, significa rughe, non tocco il tema delle malattie degenerative, e allora contro le rughe, contro la ciccia, secondo me mettiamo in moto qualcosa di più sano. Sì. Ad esempio, se uno al sabato si prepara, prende ad esempio del couscous, il couscous si prepara, uno impiega un'oretta a prepararlo, basta bollirlo, cioè avere alla fine questa semola di frumento integrale. Per chi non conosce il couscous è come se fossero spaghetti microframmentati, no? Sì. Quindi abbiamo una sorta di pasta che può essere utilizzata. È una base magnifica, come anche l'orzo, il farro, esatto. il riso integrale. Il riso integrale, cioè il riso baldo, sono risi, ad esempio, che possono avere una tenuta, l'importante è non tenerli umidi, vanno scolati molto bene e tirati fuori dalla pentola quando uno li ha semplicemente anche preparati bollendoli, molto al dente, in modo tale che non abbiano un inizio di sfacimento. A quel punto anche 8-10 giorni in frigorifero sono benissimo gestibili. A quel punto, anziché mangiarsi dei cracker, dei grissini, delle cose che hanno delle valenze poco positive, ecco che una manciata di questa sostanza, eventualmente passato un attimo nel forno a microonde, dopodiché, solo dopo, ci aggiungiamo dell'olio buono, un goccio di olio d'oliva, un micro trito, insomma, bisognerà mai precedente un po' di iniziativa. Ecco, un po' di fantasia. Dottor Speciani, grazie. Grazie anche a voi, a presto. Buona giornata. La primavera è arrivata finalmente, con i primi caldi si riscopre il gelato. Resistere alle sue tentazioni è difficile, allora lasciamoci tentare, ma facciamolo a ragion veduta. Scegliamo dunque con la testa. Per questo ci facciamo aiutare dal dottor Michele Sculati, medico specialista in scienze dell'alimentazione. Buongiorno dottor Sculati, bentornato. Buongiorno a tutti. Senta dottore, prima le farei una batteria di domande per rispondere ai dubbi comuni, poi andiamo sulle novità. Quando si legge e si dice che il gelato è un alimento completo, siamo autorizzati a pensare che possa sostituire il pasto e, nel caso, che dimensioni deve avere? Beh sì, il gelato è effettivamente un alimento completo e sano, e in Italia c'è una grandissima tradizione. Con il gelato possiamo sostituire saltuariamente un pasto, io direi di non farlo più di una o due volte per settimana, però da solo non è sufficiente. Perché? Perché al gelato mancano quegli amidi che con il loro lento assorbimento garantiscono una sensazione di sazietà nel medio-lungo termine, tant'è che se si mangia solo gelato verso il 5:30-6 si viene una fame da lupi, sì, è vero. È abbastanza. Allora, diciamo che per architettare un pasto che abbia un capo e una coda possiamo fare dalle 2 palline per una donna alle 3 palline per un uomo, associate ad un cibo che abbia degli amidi, quindi un pacchetto di cracker o dei biscotti secchi a basso contenuto di grassi, un frutto in modo da dare un po' di peso a quello che stiamo mangiando e quindi da diminuire la densità energetica. E il piccolo trucco è di associare un 5 grammi di fibre possibilmente fibre solubili che possiamo acquistare dal nostro farmacista di fiducia. Senta dottore, di solito per tradizione, no, il gelato si consuma a fine pasto, ma anche può diventare una merenda oppure la sera, no, con un dopo cena per amici. Lei ha delle occasioni di consumo più salutari o delle raccomandazioni da farci? Diciamo che il momento migliore è lontano dai pasti, perché a pasto rischierebbe di appesantirlo un po' troppo, a meno che non sia un pasto a natura squisitamente proteica. Fuori pasto, e quindi ecco, se lo facciamo a fine pasto dovremmo limitarci ad una pallina, a meno che non siamo delle persone fisicamente attive. Fuori pasto il suo consumo, il consumo migliore, diciamo 2 o 3 volte per settimana può andar bene. La dose è simile a quella che ho detto prima, un paio di palline per la donna e 3 palline per l'uomo. Certo, nel dopo cena magari se riusciamo ad associarne il consumo ad una camminata serale durante le serate estive, beh, allora possiamo, può essere qualcosa di più interessante rispetto al dopo pranzo, che poi ci risediamo subito a lavorare. Senta dottore, andiamo alla scelta, la qualità lo sappiamo fa la differenza, quindi occhio agli ingredienti. Iniziamo da quelli del gelato industriale, a che cosa dobbiamo stare attenti? Ma negli ultimi anni si è verificato un vero e proprio cambiamento nella natura stessa del gelato. Il gelato viene fatto con latte, panna, uova, zucchero e poi gli ingredienti di chi danno sapore, e negli ultimi anni il gelato industriale ha utilizzato sempre più spesso i grassi vegetali, che sono spesso olio di cocco o d'olio di palma. Beh, questi grassi hanno alcuni aspetti che sono meno brillanti da un punto di vista nutrizionale rispetto alla vecchia panna utilizzata, quindi direi nel momento in cui guardiamo gli ingredienti, essi per legge devono essere riportati in ordine quantitativo. Quindi uno dei primi ingredienti riportati nell'etichetta dovrebbe essere la panna, e poi al limite qua la presenza di oli vegetali è tollerabile, ma come ausilio tecnico. Ecco. Messaggio ricevuto, mentre per quello artigianale, dottor Sculati? Ecco, per legge il gelataio dovrebbe sempre esporre gli ingredienti. Ecco, direi che è buona norma servirsi solo da quei gelatai che lo fanno. Senta, vogliamo invece venire alle novità, perché il gelato non piace solo a noi, ma anche ai ricercatori che sono arrivati a scoprire anche un aspetto interessante di cui potremmo fare tesoro. Dottor Sculati. Beh, effettivamente l'aspetto interessante riguarda l'indice glicemico, che è un po' la velocità con cui il nostro corpo assorbe gli zuccheri contenuti nei dolci. Ecco, il gelato tra i vari dessert a disposizione ha un indice glicemico particolarmente basso. I dati che abbiamo e che sono stati pubblicati su riviste scientifiche autorevoli sono di circa 50, mentre un dessert classico sta tra i 70 e gli 80. Significa che se una persona ha un'intolleranza ai carboidrati, è diabetica, oppure se vuole ottimizzare il potere saziante degli alimenti che sta assumendo, questo è un alimento decisamente interessante. Rispetto, ecco, questo a tutti gli altri dessert. Perché? Perché il gelato è freddo e ci mette un po' più di tempo a passare dallo stomaco all'intestino, perché dobbiamo, diciamo così, scaldarlo. Ecco, questo tecnicamente si chiama tempo di svuotamento gastrico. Il gelato ha un tempo di svuotamento gastrico minore rispetto a un cibo che consumiamo a temperatura ambiente. Allora, dottor Sculati, io la ringrazio per essere stato con noi. Non mi resta che augurarle buona giornata e buon gelato. Saluti a tutti, volentierissimo. Essere e benessere. Adesso osservate la vostra fronte se potete, ma immagino che anche se non avete uno specchio a disposizione potete dirci qualcosa di lei. Le preoccupazioni o meglio i pensieri la segnano, lo sappiamo bene, ci sono persone che hanno rughe sottili che corrono lungo la fronte, ma a peggiorare la situazione si aggiungono anche 2 rughe verticali, più o meno profonde, che partono dalla base delle sopracciglia e scendono giù verso il naso. E regalano al viso quella espressione di stanchezza che certo non aiuta, ma non preoccupatevi, perché questo vi porterebbe ad aggrottare la fronte, quindi evidenziare il problema. State belle e rilassate e affidatemi, come faccio io, ai consigli della dottoressa Riccarda Serri, dermatologa e presidente di Skineco, l'associazione di dermatologia ecologica. Buongiorno dottoressa Serri, bentornata. Grazie, buongiorno. Allora, le rughe della fronte sono un cruccio. È vero che noi donne possiamo coprirle con una frangia? Ma comunque ci sono, si vedono. Un cruccio, Nicoletta, le rughe della fronte possono anche essere carine,